Gli italiani sono imbufaliti con i parlamentari che temono di dover saltare le ferie in agosto. Se però la Fornero in ferie ci vuole stare tutto l'anno, faccia pure. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiaccio.